Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, mentre trasmettiamo dal Cibus di Parma, quindi il più importante appuntamento per l'industria agroalimentare italiana, che sarà uno dei temi di questa puntata. 3.000 espositori, 11% in più rispetto al 2015, in un settore che vale, il settore dell'industria alimentare, 132 miliardi di euro, fa l'11,5% del PIL, con 37 miliardi di euro di export, ed è la voce, il contributo più forte dopo il settore meccanico, quindi è un settore industriale di tutto rispetto, anzi il secondo per contributo e importanza. Di questo parleremo, è intervenuto anche il ministro Martina, ci sono vari temi sul tavolo, tra cui anche e soprattutto le trattative in corso con gli Stati Uniti da parte dell'Unione Europea per avere maggiore libero scambio di prodotti. L'Italia però punta anche a ottenere una maggiore tutela dei suoi prodotti come marchio, il cosiddetto tema dell'Italian Sounding. Questo nel giorno in cui si è tenuta però l'assemblea annuale della Consob, questa mattina a Milano, il discorso tradizionale del presidente della Consob Giuseppe Vegas al mercato finanziario. Vegas ha toccato chiaramente vari temi, ha promosso il fondo Atlante, fondo di salvataggio per le banche in difficoltà, ha detto che le fusioni bancarie, ma non solo, rendono il sistema più efficiente e competitivo, e poi ha ricordato che nel caso dei recenti scandali bancari, dall'Etruria diciamo a Vicenza e Veneto Banca, i prospetti sono troppo complessi per essere compresi. Il prospetto informativo che si dà ai risparmiatori resta un documento troppo lungo e complesso per poter essere letto e pienamente compreso dal risparmiatore. Un eccesso di informazione equivale quasi sempre a una carenza di informazioni. È un po' il principio contestato nei prodotti farmaceutici delle volte. Allora, in questo caso noi, fa piacere che Vegas ne prenda atto adesso, dopo quanto è successo. Il riferimento era chiaramente alle obbligazioni strutturate vendute dalle quattro banche salvate a fine novembre. Su questo, infatti, Vegas cita esplicitamente i prospetti delle obbligazioni subordinate, quelle che si prestano più di altri a sembrare prodotti sicuri, perché c'è l'obbligazione, ma c'è anche l'aggettivo strutturate, e lì arriva il rischio, delle volte anche la fregatura. Sentiamo questo passaggio di Vegas, appunto, nella sua relazione annuale al mercato finanziario. Occorre ricordare che i prospetti e supplementi informativi che accompagnavano le emissioni delle obbligazioni subordinate delle quattro banche erano stati redatti nel rispetto delle regole di trasparenza previste dalle norme sul prospetto informativo, il cui contenuto è disciplinato direttamente da un regolamento comunitario. In fase di loro approvazione, Consob ha valorizzato tutte le informazioni in proprio possesso, incluse quelle trasmesse da Banca d'Italia. I prospetti in questione hanno dato massima evidenza a tutti i fattori di rischio connessi alla complessità degli strumenti e alla situazione in cui versavano le banche. Essi specificavano che l'investitore avrebbe potuto perdere l'intero capitale investito in caso di liquidazione o di procedure concorsuali. Questi elementi sono stati inseriti nella parte relativa ai fattori di rischio e nei casi più significativi sono stati ripresi e sintetizzati nella prima pagina dei prospetti, nella sezione denominata avvertenze per l'investitore. Questo Vegas l'ha detto oggi, nel giorno in cui sono tornati i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Arezzo e Firenze, sono tornati a perquisire Popolare dell'Etruria, perquisizioni locali finalizzate alla ricerca e al sequestro della documentazione riguardante proprio il collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni subordinate, quelle che sono state non salvate al pari delle azioni nel procedura di fallimento delle quattro banche, perché c'è l'Etruria, ma ricordiamo che c'era anche Chieti, Ferrara e Marche. Ma al tema della chiarezza informativa, della chiarezza dei prospetti informativi, sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, che ricordo sono trasmessi ogni giorno anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Il tema della corretta informazione dei risparmiatori, della chiarezza dei prospetti che descrivono i prodotti finanziari venduti da banche e intermediari è stato uno dei punti chiave dell'intervento di Giuseppe Vegas, presidente della Consob, all'incontro annuale che si è svolto oggi a Milano. Sullo sfondo, naturalmente, ci sono le vicende legate ai casi delle due banche venete, Popolare Vicenza e Veneto Banca, dove gli azionisti hanno visto di fatto azzerarsi il valore delle azioni, sia quello delle quattro banche salvate dal governo con il decreto di novembre. Che cosa ha detto il presidente della Consob? Beh, ha annunciato alcune novità già da oggi in consultazione, tra cui l'arrivo di schede prodotto con le caratteristiche essenziali degli strumenti offerti ai risparmiatori, ciò nella convinzione che il problema non sia la quantità di informazioni offerte ai risparmiatori, ma la loro chiarezza, nel senso che spesso troppe informazioni equivalgono di fatto alla totale opacità. È un'iniziativa, quella della Consob, che ricalca la proposta e la richiesta avanzata dal Sole 24 Ore per una semplificazione dei prospetti proprio a tutela dei risparmiatori. Ed è un passo avanti, perché la Consob, che pur difende il suo operato sulle obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti, riconosce che gli attuali prospetti sono troppo lunghi, troppo complessi, con informazioni che faticano ad arrivare ai risparmiatori. Ciò che serve invece sono informazioni più semplici, più sintetiche e con la chiara indicazione dei livelli di rischio per ciascun prodotto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E anche di questo parleremo, dicevo, nella seconda ora del programma, così come parleremo anche di Grecia. C'è un Eurogruppo che inizierà alle 18.30 dedicato proprio alla Grecia, e avete letto sui giornali degli scontri ieri davanti al Parlamento di Atene contro la nuova austerità, anche lì manifestazioni di anarchici, molotov lanciate, perché il Parlamento greco ha approvato ulteriori misure di austerità volte che servono per sbloccare la seconda tranche di aiuti, anzi la seconda tranche del terzo piano di aiuti internazionali per 86 miliardi di euro. Il via libera ha avuto ieri riguardo in particolare la stabilizzazione del sistema pensionistico e un aumento delle tasse per complessivi 3 miliardi e 600 milioni di euro. Sono misure che si inseriscono in un pacchetto più ampio da 5 miliardi e 400 milioni di euro concordato con Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. La borsa, vedo già dei messaggi al 349-238-6666, dunque Parigi più 0,30, Francoforte più 1%, Londra invariata, Milano perde invece l'1%, al di là di Campari positiva del 3,35, Ferragamo del 2,60 e Mediolanum dell'1,70%, Jux più 1,20% e Luxottica più 1,1%, vanno male e anche in maniera significativa le banche. Il Banco Popolare perde l'8,70%, il Monte dei Paschi l'8%, la Popolare di Milano 7,20%, Popolare Emilia Romagna meno 4,60%, UbiBanca meno 3,70%, con anche Anima Holding in calo del 4,70%. Allora, parliamo di delle notizie negative, e anche la relazione della Consob ha messo in evidenza più di una fragilità, vogliamo essere buoni oggi, ma parliamo di cose positive, perché il settore alimentare italiano, pur con tutto un insieme di criticità, ha segnato una crescita sia negli occupati che nel fatturato, miliardi più 7% l'anno scorso, nonostante le sanzioni alla Russia, che era un grandissimo cliente di cibo e prodotti enogastronomici italiani, nostro export verso Mosca. Si calcola un danno di 250 milioni di euro solo l'anno scorso. Bene però le vendite negli Stati Uniti più 19%, Arabia Saudita più 39%, Cina più 24%. E l'obiettivo resta quello di arrivare a un export che da 37 miliardi salga a sostanzialmente 50 miliardi di euro, perché entro il 2020, non quest'anno, che vorrebbe dire aumentare i dipendenti complessivi della filiera agroalimentare fino a 100.000 unità. In questo momento il settore è un settore che ha visto crescere anche gli occupati negli ultimi 10 anni, siamo a 385.000 occupati dell'industria e quindi delle 60.000 aziende che lavorano nel settore agroalimentare. Non sto parlando chiaramente di chi produce la materia prima, quindi del mondo agricolo. E poi il tema del TTIP, come si chiama in gergo, cioè i trattati che si vorrebbero fare con gli Stati Uniti. Ne ha parlato il ministro Maurizio Martina oggi in apertura alla Fiera Cibus, dove stiamo trasmettendo. Qualcuno mi chiede il padiglione, è il padiglione 7, stand C101. Sentiamo al microfono del nostro Adriano Palazzolo il ministro alle politiche agricole Martina sulle strategie per arrivare a questo obiettivo comunque dei 50 miliardi di euro di esportazioni entro il 2020. Continuare come abbiamo fatto fin qui con il piano straordinario per l'internazionalizzazione, dedicare risorse alle imprese agroalimentari, lavorare sulla formazione, sull'organizzazione, selezionare i mercati, concentrare le risorse anche pubbliche su mercati potenziali straordinari. Abbiamo visto tutti i numeri incredibili che abbiamo fatto ad esempio negli Stati Uniti in questi mesi. Noi siamo sostanzialmente in linea col nostro programma, nonostante alcuni problemi non banali. Pensate al blocco del mercato russo. Nonostante questo problema, noi abbiamo fatto il record dei 36,8 l'anno scorso e ci sono tutte le condizioni perché il 2016 sia un ottimo anno. Mentre l'impegno per lo sviluppo sostenibile del 2030. Sul grande tema della sostenibilità stiamo lavorando da tempo. E io credo che sia ormai consapevolezza diffusa, in particolare per le nostre imprese, che sostenibilità e competitività vanno di pari passo. Noi dobbiamo certamente spingere l'asticella della sostenibilità delle nostre produzioni e dei nostri modi di produrre sempre più avanti. E io vedo una consapevolezza anche dal lato delle imprese molto interessante. Ci sono tante imprese agroalimentari italiane che stanno lavorando benissimo sulla sostenibilità dei loro modelli produttivi e questo è un bene perché aiuta anche il sistema a rispondere a questi obiettivi. Sempre su questo anche Antonio Celie, che è presidente di Cibus, le prospettive dell'export, è sempre al microfono del nostro Adriano Palazzolo. Il futuro delle esportazioni è continuare a essere consistenti come lo siamo stati negli ultimi 5 anni, cioè non farci scoraggiare dalla crisi, dalla riduzione del reddito disponibile, dalle opportunità di acquisto alternativa a quello del food. Oggi quello che hanno capito i consumatori italiani, europei e anche mondiali è che mangiare meno e mangiare meglio è la migliore scelta possibile di vita che si possa fare. Il cibo migliore per fare questa scelta è quello italiano. Questa Cibus del 2016 è la rappresentazione tassonomica di questa opportunità. 3.000 aziende di tutte le dimensioni, dalle grandi multinazionali alle micro aziende e alle collettive regionali, in grado di esprimere questo tipo di offerta. Primo giorno di fiera, è andato in giro per i padiglioni insieme ai ministri. Cosa ha visto? Ma ho visto la volontà di confermare un progetto di terroir che viene da lontano, perché questa è la 18ª edizione, la prima edizione è dell'85, quindi la bontà di aver fatto una scelta molto specifica che evoca Parma a sede fieristica dell'agroalimentare Made in Italy. E concludiamo questa carrellata di interviste realizzate dal nostro Adriano Palazzolo con quella Rodrigo Cipriani. Chi è? Beh, è il responsabile italiano di Alibaba, colosso mondiale nelle vendite online. Jack Ma era ospite d'onore all'ultimo Vinitaly a Verona, più di 800 milioni di clienti per 120 milioni di acquisti a livello mondiale ogni giorno. Alibaba ha deciso di essere presente a Cibus e lo ha spiegato appunto Rodrigo Cipriani al nostro Adriano Palazzolo. Dell'alimentare in Italia, noi siamo molto vicini alle aziende alimentare, se cerchiamo di spiegare a questo mondo qua come andare in Cina, visto che i consumatori cinesi adorano i prodotti italiani, ma in maniera particolare i prodotti alimentari. Lo shopping online abbatte le barriere e anche i controlli. Al momento si parla molto di contraffazione alimentare. Cosa si può fare per evitare questo problema? Tanto per cominciare, la contraffazione per noi è una priorità, debellarla. La contraffazione è un problema globale, mondiale, cioè offline e online. Alibaba è molto vigile, presente, e un esempio pratico: noi abbiamo sottoscritto un anno fa un accordo col Ministero dell'Agricoltura. Il Ministero dell'Agricoltura è stato l'unico ministero al mondo ad aver sottoscritto un accordo con Alibaba per proteggere 6 prodotti, tra cui il parmigiano, il prosecco e un aceto balsamico. Proteggendo i prodotti ci permettono alle aziende stesse che ha registrato il suo marchio e protetto il prodotto di fare il cosiddetto take down, eliminiamo tutti i fake, però solo e soltanto attivando un sistema di protezione del proprio marchio noi siamo in grado poi di aiutare le aziende a eliminare i prodotti falsi. Qual è in questo contesto il sentimento dei cinesi nei confronti del Made in Italy? Allora, i cinesi adorano i prodotti italiani. I nostri consumatori, i nostri clienti sono clienti giovani, millennium degli anni 90, adorano i prodotti italiani, il Made in Italy e soprattutto lo still life italiano. Allora, di questo, perché qua ci sono già dentro tutti i temi, da un lato le trattative anche di carattere internazionale e poi la tutela dei nostri prodotti, parliamo da un lato con chi in qualche modo fa gli onori di casa, il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. E poi abbiamo preso anche volutamente, non potevamo invitare tutti gli ospiti presenti in questo, i 3.000 espositori, ma volutamente abbiamo preso chi fa piccola produzione in una terra difficile, non perché non sia bella, ma perché è difficile fare impresa nel nostro mezzogiorno. E mi riferisco a Pietro Di Leo, che lavora a Matera, che nel 2019 sarà capitale della cultura mondiale, per cui auguri in bocca al lupo. Ha un pastificio che però è nato nel 1860 e attualmente avete 40 dipendenti e continuate a crescere di fatturato. Buonasera anche a lei. Grazie, grazie a tutti voi. Poi arriveremo a capire la realtà proprio di tutti i giorni, in chi operando là dove abbiamo giacimenti immensi di patrimonio anche gastronomico e anche enologico. Però è inutile girarci attorno, nel mezzogiorno mancano spesso le industrie, quindi le dimensioni industriali, la capacità di fare investimenti e di aggredire i mercati in maniera un po' più sistemica. Però vorrei partire da Luigi Scordamaglia. Andiamo subito sul tema degli accordi, perché insomma, aumentare l'export nel 2020 è un obiettivo, ne abbiamo parlato con lei molte volte anche durante l'Expo. Però il primo tema che dovete fronteggiare sono proprio questi accordi tra l'Unione Europea, trattative tra l'Unione Europea e Stati Uniti per arrivare a un maggiore interscambio commerciale. Il punto è molto semplice: noi vogliamo mettere in queste trattative anche una maggior tutela dei, tornando al discorso di prima, dei marchi italiani, o meglio dei prodotto, della qualità del prodotto italiano. C'è chi immaginava di puntare a obbligare, tra virgolette, a fare in modo che gli americani riconoscano la nostra DOP. Altri soggetti, come il neo ministro alle attività produttive e allo sviluppo economico Carlo Calenda, quando era viceministro, ce lo raccontò ai nostri microfoni, dicono: no, attenzione, lì secondo me non passerà mai la linea di una DOP, perché ci sono le lobby dei produttori americani che non hanno proprio voglia di farsi fregare in quel modo. Bisogna puntare a una via di mezzo che però ci permette di portare a casa una maggior tutela. L'Italian Sounding, non solo negli Stati Uniti, vale 60 miliardi di euro, non è contraffazione, sono prodotti spacciati per italiani, prodotti negli Stati Uniti, legali. Faccio notare che nel 2001, Scordamaglia, noi esportavamo circa 19 miliardi e 19 miliardi era l'Italian Sounding a livello mondiale. Nel 2015 esportiamo 37 miliardi, ma l'Italian Sounding è raddoppiato. E quindi è due volte il nostro. Quindi da un lato esportiamo di più, ma dall'altro che è la quota parte di prodotti realmente italiani rispetto a quelli che sembrano italiani. Quindi cominciamo col dire che la liberalizzazione degli scambi tra i due è enorme per noi, quindi tutti i discorsi ideologici che oggi si fanno, TTIP sì, TTIP no, è un'opportunità. In questa grande opportunità ci sta la tutela delle denominazioni geografiche Negli Stati Uniti è ancora più grave il fenomeno, perché lei diceva 1 a 2, in realtà negli Stati Uniti siamo 1 a 8, cioè 1 è vero e 7 sono fake di prodotti italiani venduti come tali. Che cosa fare? Sono d'accordo con quello che diceva, gli strumenti legali lì non funzionano, c'è una tutela del marchio che è più forte delle indicazioni geografiche. Bisogna invece fare delle campagne di comunicazione. Su questo gli americani stessi sono molto molto duri. Quando qualcuno è misleading, quando racconta delle favole non vere al consumatore americano, paga. E allora noi dobbiamo andare lì a dire che il Parmesan del Wisconsin ci sarà sempre, non è un problema legalmente, ma non gli vanno attribuite delle vocazioni di italianità, bandiere, foto, nomi, che in realtà non ha, che quindi esiste il Parmesan del Wisconsin, ma che nulla a che fare con quella cosa straordinaria e meravigliosa che è il parmigiano reggiano. Lo stiamo facendo col governo e oggi, per esempio, nella nostra assemblea anche Michiel Bakker, che è il capo mondo di Google Food, ha detto: attenzione, questo è il momento per venire a raccontare la vostra storia dei prodotti italiani, per venire a raccontare, oltre alla qualità e alla sicurezza, la storia meravigliosa che voi avete da vendere sugli scaffali americani. Sì, perché come raccontiamo anche durante il Vinitaly, è al di là di ogni retorica, quando tu vendi in questo momento un prodotto italiano, soprattutto se di fascia medio-alta, non stai vendendo solo il marchio X o il vino Y, il pastificio Z, stai vendendo l'immagine di un paese, che vale anche al contrario, nel senso che più l'immagine di un paese è dell'Italia, di un'immagine di qualità della vita, più tu riesci a piazzare anche prodotti italiani per il solo fatto di essere italiani. È un po' come dire un prodotto tedesco che si avvantaggia, se lavora nel campo della meccanica, della precisione, dell'immagine che ha la Germania su questo. Certo, dobbiamo evidenziare anche un'altra cosa, non è solo l'Italian Sounding che ci blocca, l'Italian Sounding è la diretta conseguenza della nostra spesso incapacità di essere presenti a scaffale, cioè noi abbiamo una intrinseca difficoltà, legata un po' anche alle dimensioni, magari non sempre adeguate delle nostre aziende, a coprire l'ultimo miglio, quindi bisogna arrivare sugli scaffali sì con la qualità e la sicurezza, ma se non gli dai certezza di consegna, capacità distributiva appunto di quello che si intende per ultimo miglio, lasci lo scaffale vuoto. Se lo lasci vuoto, e sta succedendo in Russia dopo l'embargo, qualcun altro lo riempie per te. Adesso arriviamo alla Russia, ma in una battuta, però ascoltando quello che dice lei, secondo me non potrebbe dire, vabbè, ma se il problema è di comunicazione, di accordo con il governo americano e con i singoli stati, non serve l'accordo Europa-Stati Uniti, cioè perché certo. Dobbiamo impiccarci sul... Perché l'accordo Europa-Stati Uniti è un accordo globale dove si smantellano, a prescindere dalla tutela delle indicazioni geografiche, si smantellano tantissime barriere non tariffarie che oggi si oppongono, faccio riferimento a dei regolamenti sanitari che impediscono per esempio ad una parte dei nostri salumi di arrivare su quel mercato, si smantellano anche dei dazi tariffari e... Soprattutto, cosa che non si è capita, si scrive insieme la normativa del futuro. Questa paura che la conclusione del TTIP porti ad uno smantellamento degli standard comunitari e quanto di più lontano ci sia, la cooperazione regolamentare che ci sarebbe vuol dire che Europa e Stati Uniti si siedono e scrivono le nuove regole. Se non lo facciamo non c'è problema, le nuove regole mondiali verranno scritte sulle due sponde del Pacifico e non dell'Atlantico, cioè gli Stati Uniti le scriveranno coi cinesi, cosa che hanno già fatto, e noi le subiremo. Russia, veniamo alla Russia, citavo i 320 milioni di euro di danno sull'export l'anno scorso, che non è poca cosa per il vostro settore, perché ha colpito anche il legno arredo, ha colpito anche altri settori importanti dell'Italia, però voi in particolar modo, in un mercato che, come abbiamo già raccontato, aveva la caratteristica di comprare quello che si chiama il top di gamma, cioè la parte alta di qualità, per cui non andava sull'Italian Sounding, andava sull'originale italiano, pagandolo anche. Ora, c'è chi mi ha scritto e dice al 349-238-6666, ma tanto sappiamo che con la Russia i nostri produttori stanno aggirando il problema, creando società fittizie, diciamo, di import-export in Serbia, a parte il fatto che comunque è un costo in più. A metà giugno, 20 giugno, vado a memoria, ci dovrebbe essere una missione molto importante, tra l'altro anche col Presidente del Consiglio Renzi, a San Pietroburgo per un vertice di cui l'Italia sarà ospite, paese ospite, e quindi paese di riguardo. Che cosa sperate di ottenere? Ma non mi sembra che il problema sia sul fronte russo, è più sul fronte europeo, atlantico di nuovo. Assolutamente sì, il dramma, il danno dell'embargo russo è legato al fatto non solo del valore assoluto di quello che si esportava, ma al fatto che crescesse al 25% all'anno, quindi in poco tempo avremmo decuplicato le esportazioni. Il danno è legato al fatto che, mancando il prodotto italiano, lo amano così tanto che anche lì comincia a comparire l'Italian Sounding che prima non c'era. Questo incontro di San Pietroburgo, del forum, è fondamentale perché per la prima volta la Russia sceglie di avere un unico paese ospite di riferimento ed è l'Italia col suo Presidente del Consiglio. Detto questo, quello che è inaccettabile è come al solito l'Europa. L'Europa che delega tutto agli Stati membri, su quello vuole decidere lei, vuole parlare con una voce sola, poi però chissà perché usa due lingue, l'abbiamo già visto, la lingua di apertura per il Nord Stream, la lingua di chiusura per il South Stream e guarda caso, visto che l'alimentare interessa solo a noi, una lingua di chiusura. Quindi una preferenza per gli interessi del Nord Europa tedesco-centrici. Niente di nuovo, assolutamente questo. No, questa volta però non l'ho detto io, questa è l'unica cosa nuova, almeno l'ho detto lei, quindi non mi assumo le responsabilità. Però insomma. Ultimo punto che riguarda invece l'industria agroalimentare italiana e al di là degli accordi di carattere internazionale, su questo più volte abbiamo ragionato con lei anche della necessità o di avere un'industria legata alla grande distribuzione, perché non vorrei che passi solo il messaggio che il nostro problema è solo l'Italian sounding, cioè, lei lo ricordava prima, c'è anche la distribuzione. La Francia in Cina esporta già quasi 900 milioni di euro di vino, noi siamo 87. Uno dice, vabbè, esportiamo in altri mercati. Sì, ma lo può fare lì perché in Cina ci sono Auchan e Carrefour che hanno aperto decine, mi sembra centinaia a questo punto, di punti vendita. Che cosa può fare l'industria agroalimentare italiana da questo punto di vista? Perché a noi sembra che ancora l'imbuto sia stretto, cioè voi siete bravissimi, poi appunto l'ultimo miglio vi crea problemi. E come mettere in filiera, visto che poi parleremo con un piccolo produttore, chi non ha le dimensioni non può pensare in questo momento di diventare in 4 anni decuplicare il fatturato? Innanzitutto basta con l'alibi del fatto che, visto che non ci sono catene distributive italiane all'estero, allora per questo ci dobbiamo rinunciare. Quello che serve sono effettivamente piattaforme distributive che siano orientate, come dicevo prima, al retail, ma che siano orientate anche verso un altro canale che è quasi il nostro esclusivo appannaggio, in cui siamo fortissimi, che è quello dell'Horeca. Quindi piattaforme distributive logistiche. Le aziende ultimamente ci hanno lavorato, esistono modelli diversi che sono nati negli ultimi anni e mezzo, 2 anni. Il modello più comune in cui la grande azienda crea una propria piattaforma distributiva in più zone di un determinato mercato e ovviamente attraverso quella tutto l'interesse a veicolare non solo i propri prodotti, che per quanto tanti saranno sempre pochi, ma centinaia di piccole e medie aziende italiane che si aggreghino a lei a fare in modo che quando l'ordine arriva sul retail della grande distribuzione ci arriva con 100, 200, 300 prodotti. Esistono forme alternative che sono forme consortili, esistono forme diverse, ma ripeto, stiamo recuperando anche su questo il tempo perduto. Allora io ringrazio il Presidente Scodomaglia che poi ha un'agenda fitta di interventi oggi, il Cibus, lo ricordo a tutti voi in ascolto, andrà avanti tutti i giorni aperto alle 9.30 alle 18 per i prossimi, da oggi fino al 12 maggio, è la 18ª edizione. Vado sul meteo e la pubblicità, 349-238-6666, poi cerchiamo di capire molto concretamente e nella vita di tutti i giorni che cosa manca in chi ha un ruolo importante, anche se di dimensioni piccole, in questo settore. Logisticamente, Module Block. Scarica l'app Module Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta dal Cibus di Parma, padiglione 7 e lo spazio, lo stand del 101. Allora, dopo aver ragionato di accordi bilaterali, Unione Europea, Stati Uniti, del fatturato enorme che comunque riesce a produrre dell'export in aumento il nostro settore, la nostra industria agroalimentare, uno dice precipitiamo sul locale. Sì, perché poi i problemi di tutti i giorni si capiscono anche con i piccoli. Lei, Pietro Di Leo, gestisce il biscottificio di Leo Pietro S.P.A. di Matera, nato nel 1860 ad Altamura. Fatturate 15 milioni di euro e avete fatto l'11% in più nel 2015, perché al di là del fatturato conta l'andamento di questo fatturato, con 40 dipendenti. Ha ascoltato con noi i vari aspetti toccati dal Presidente Federale Matera Scodamaglia. Lei poi quando deve calare questi ragionamenti, che valgono per tutto il settore, chiaramente quindi non possono valere, vagano complessivamente, non per i singoli casi, qual è quello che vive di più sulla sua pelle tutti i giorni quando deve fare impresa? Bene, grazie. Fare impresa, come ha detto lei prima, al sud chiaramente non è facile, è estremamente difficile, però questo non deve demoralizzarci, non deve farci tirare indietro nel cercare di accettare e vincere possibilmente le sfide. Certo, noi viviamo una realtà molto diversa perché siamo lontani da molti mercati e le infrastrutture poi chiaramente fanno anche la differenza. Però noi ci siamo sempre stati e noi possiamo cercare di vincere le prossime sfide cercando una via della differenziazione dei prodotti, legare i nostri prodotti per esempio al nostro territorio, facendoli con prodotti autoctoni, i nostri prodotti della nostra terra. Questa può essere la via, la chiave di volta per accettare le sfide e per cercare di internazionalizzare anche le nostre piccole aziende. Quando lei insomma, deve pensare per la commercializzazione, qual è l'ostacolo più grosso che incontra? È la struttura, cioè le dimensioni della sua impresa, quindi i costi, è l'incapacità di recepire quello che è il suo prodotto, la non conoscenza di certi mercati? Beh, guardi, noi da sempre abbiamo cercato di fare dei prodotti diversi dal MeToo, cioè quindi non abbiamo mai voluto cercare di copiare il leader di mercato e questo ci ha dato poi la possibilità di vincere alcune sfide e di cavalcare alcune, io le chiamo emozioni importanti come quelle che stiamo vivendo in questo ultimo periodo. E quindi noi pensiamo sempre di poter offrire, dobbiamo offrire prodotti diversi, prodotti che possano veramente raccontare la storia del nostro territorio, perché noi pensiamo che i prodotti rappresentano il nostro territorio, soprattutto rappresentano e sono ambasciatori della cultura di ogni territorio. Su questo vorrei chiudere con lei, perché Matera nel 2019 è riuscita a diventare capitale mondiale della cultura, è già patrimonio UNESCO. Allora, prima si diceva con Scodomaglia che in generale tu quando esporti vino, esporti cibo, non esporti solo un prodotto, esporti anche l'immagine di un paese, perché lì soprattutto sui prodotti di nostra fascia, quindi alta qualità e non fascia diciamo solo bassa, uno te lo compra perché crede all'Italia come il luogo dove si vive bene, la qualità della vita e quant'altro. È un gioco dialettico, in realtà è biunivoco, perché poi anche questo e fa migliorare l'immagine complessiva dell'Italia. Come pensate di sfruttare questa immensa opportunità? Perché se ben giocata, e c'è un forte interesse di carattere anche turistico nei confronti di Matera, un connubio che unisca le imprese che fanno prodotti locali, penso a quelle alimentari, ma non solo, non necessariamente solo alimentari, con un'organizzazione più complessa che porti Matera al centro dell'orizzonte turistico, culturale nel 2019, e anche negli anni prima, e sarebbe l'esempio più virtuoso possibile. Beh sì, Matera ha rappresentato un grande esempio, è un grande esempio. Matera ha dimostrato che con la cultura si può, con la cultura si deve, e noi abbiamo vissuto accanto alla candidatura della città di Matera capitale della cultura nel 2019, una bellissima esperienza. Siamo stati partner per tutto il periodo e questo ha portato a un grandissimo risultato, un risultato che la gente lucana ha voluto, gli imprenditori lucani hanno voluto, perché siamo convinti che, ecco, il riscatto di Matera, perché non dimentichiamo che Matera nel 1954 fu denominata la vergogna nazionale per, certo, le condizioni da De Gasperi, no? Ecco, per le condizioni di vita che all'epoca i Sassi erano, e fino ad arrivare oggi, quindi un bellissimo percorso, un grande riscatto, e noi pensiamo che questo grande riscatto possa e debba essere il futuro per tutto il Meridione d'Italia, per tutta l'Italia. Io auguro a lei, in quanto imprenditore del Sud, e poi a tutta la città di Matera, ai nostri imprenditori del Sud, in bocca al lupo e fortuna, perché lì secondo me un lavoro un po' sulle dimensioni, sulle reti di impresa, almeno aggregatevi, non dal punto di vista societario, ma nella distribuzione. Quello va fatto e secondo me c'è ancora molta strada. Spero da qua al 2019, anche a Matera e soprattutto a Matera, che le cose possano che a Pietro Di Leo. Grazie a voi, Pietro Lupo. Adesso andiamo sul traffico. La borsa ha chiuso con un meno 0,90% a Milano. 12 Francoforte, meno 0,20 Londra, meno 0,20 Dow Jones. Già capite che Milano ha avuto una giornata un po' particolare e per via dei titoli bancari. Alla fine il calo è pesante sul Banco Popolare, meno 8,75%, Monte dei Paschi meno 7,5%, Milano meno 7%, Pop Media Romagna meno 4,5%, UBI Banca meno 3,60, Unipol meno 2,40. Di questo parleremo e poi parleremo chiaramente anche della relazione annuale del presidente della Consob, che ha toccato principalmente il tema dei prodotti bancari, 3-4 prodotti che vengono venduti dalle banche alla clientela. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Traffico. Focus Economia. Allora, per quello che riguarda le banche, il Banco Popolare è il peggiore oggi, c'è poco da sorridere, nel senso che è una giornata che ha preso una piega sempre più negativa, euro a quota 1,14. Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Leonora, è arrivato sul Banco Popolare di via libera l'aumento di capitale nel fine settimana da 1 miliardo. Però, insomma, non è solo il Banco Popolare fa da apripista in questo calo, ma anche il Monte dei Paschi ha perso 7,5%, Pop Milano 7%, Pop Emilia Romagna 4,5%, cioè non sono cali a cui possiamo abituarci, prego. Sì, diciamo che appunto gli investitori sono tornati a colpire le vendite, a dare il là a tali vendite sono state anche le parole pronunciate da Pierfrancesco Saviotti, il numero uno del Banco Popolare, che ha preannunciato una trimestrale che sarà probabilmente sotto le attese, visto che dovranno essere tenuti conto dei crediti appunto della banca in sofferenza, ci saranno delle poste per far fronte a tali crediti, quindi questo ha di nuovo posto in primo piano il problema dei crediti incagliati, crediti in sofferenza delle banche, e ha penalizzato un po' tutti i titoli bancari, fatta eccezione di Intesa, che è riuscita sul finale a salire dello 0,6%. Sì, e su questo faccio notare che oggi su Financial Times c'è anche un articolo non molto buono nei confronti di Unicredit, dice nuovi timori sulla capitalizzazione e sulla governance di Unicredit dopo la vicenda della Popolare di Vicenza, che ha costretto a un salvataggio sistemico attraverso il fondo Atlante. Non a caso tu citavi, e citavo anch'io, le altre banche, l'unica che è andata in maniera diversa oggi è stata Intesa San Paolo, più 0,60%. Ancora, tra i titoli invece non bancari, Saipem perde il 4,5%, e invece sul fronte opposto, bene, Campari più 3, Ferragamo più 2,40, Iux Santa Porte più 1,70, Luxottica più 1,15, Moncler più 0,70, quindi Saipem da un lato e Lusso dall'altro. Sì, per quanto riguarda Saipem è andata male, visto che venerdì scorso a borsa chiusa, a mercati chiusi, Standard & Poor's ha annunciato di aver tagliato il giudizio sulla società, sulla quale inoltre ha espresso un outlook, ovvero la previsione futura negativa, e quindi questo ha penalizzato fortemente le azioni, che sono andate giù del 4,5%, e peraltro andavano giù anche in mattinata, quando invece il petrolio stava salendo, ora invece sta perdendo terreno. Per quanto riguarda invece Campari è stato l'effetto, diciamo, della trimestrale, una trimestrale che è risultata superiore alle attese degli analisti, i ricavi sono risultati in linea con quelli dell'anno scorso, ma i margini al netto di tutta una serie di poste straordinarie sono risultati in netto miglioramento, in un miglioramento addirittura sopra il 20%, e quindi questo è piaciuto molto ovviamente agli analisti e è piaciuto molto agli investitori. Poi ci sono le azioni del lusso che sono andate bene, Ferragamo più 2,37% ha tirato la volata, ma anche Moncler più 0,76%, e qui è l'attesa per la trimestrale, si scommette che sia buona, domani sarà la volta di Moncler, giovedì quella di Ferragamo, e poi nel caso di Ferragamo ricordiamo che si attende anche indicazioni sia sullo stilista che ha dato l'addio alla società nei mesi scorsi, sia anche sull'amministratore delegato. Michele Nors ha detto che entro fine anno lascerà la plancia di comando e dovrebbe essere scelto un nuovo manager, si parla già di Poletto che fino a pochi giorni fa guidava la Furla che si quoterà poi probabilmente a Piazza Affari. Allora, sui migliori e peggiori invece, RCS Media Group guadagna 5,26%, qua ci sono varie dichiarazioni che riguardano l'offerta lanciata da Urbano Cairo. Mediobanca ha detto infatti che si riserva di valutare ogni opzione per la miglior valorizzazione, insomma andrà a valutare possibili proposte alternative.

Il prospetto informativo, immaginato dal legislatore comunitario come un contenitore che raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza. Un eccesso di informazioni equivale quasi sempre a una carenza di informazioni. Il prospetto è divenuto uno strumento utile a chi lo redige per prevenire possibili rischi legali, ma rimane un documento troppo lungo e complesso per poter essere letto e pienamente compreso da un risparmiatore. Allora, uno potrebbe dire meglio tardi che mai da questo punto di vista, nel senso che questi prospetti sono esplosi nella loro complicazione, nella loro poca chiarezza, nel loro essere troppo lunghi e quindi inutili, e dopo le vicende che ricordavamo. E va anche detto appunto che da questo punto di vista, meno male che è arrivata anche un giudizio della Consob. Per quello che riguarda invece altri passaggi degli interventi di Vegas, ricordo che sul fondo Atlante Vegas ha detto le iniziative private volte a costituire fondi specializzati per aiutare la ricapitalizzazione delle banche, questo per fare poi Atlante, vanno promosse bene appunto le iniziative private. E poi la nostra Livia Zancaner, invece, che ha coperto la relazione annuale della Consob, ha chiesto in maniera ancora più esplicita cosa possa fare la Consob, non solo, per ristabilire un clima di fiducia tra risparmiatori e clienti e mondo bancario. È bastato un fenomeno che dal punto di vista finanziario è modesto, cioè la liquidazione di banche che equivalgono a circa l'1% del totale delle banche italiane, per creare uno scompiglio, una apprensione, una paura nei risparmiatori che non si era mai vista, ma in fondo era da quasi un secolo che le banche in caso di difficoltà venivano finanziate a carico dell'erario. Adesso si capisce che il mondo non è più così, quindi chi deposita o chi investe nelle banche rischia, e questo ovviamente, come tutte le cose che cambiano il modo di vivere delle persone, ha creato scompiglio. Ovviamente bisogna intervenire come rendendo più difficile che siano emessi prodotti che possono ingannare o che possono costituire un rischio superiore a quello che il risparmiatore può permettersi. Quindi le vostre soluzioni quali sono? Le nostre soluzioni sono in questa fase di rendere più rigorosa la vigilanza, di chiedere alle banche o a qualunque emittente di meglio precisare nelle avvertenze del prospetto e fare una specie di scheda di sintesi per far capire rapidamente, senza bisogno di leggersi magari 800, 900, 1000 pagine di prospetto che non leggerebbe mai nessuno, e poi di collocare le obbligazioni soprattutto sul circuito tipo borsa, sostanzialmente, in modo da poter constatare un prezzo visibile e riconoscibile, perché altrimenti troppo spesso è accaduto che anche da parte di soggetti non quotati vengono messe azioni e vendute a un prezzo che è assolutamente irrealistico, e poi i risparmiatori ci restano gravemente danneggiati. Dal punto di vista delle banche, secondo lei il fondo Atlante può essere una soluzione? Beh, allo stato attuale è stata una soluzione, anche perché è un fondo privato, non è un fondo pubblico, e finanziamenti da parte del settore pubblico ormai sono esclusi. È una soluzione, vediamo se le banche riprendono, perché potrebbe essere anche una soluzione di successo, ma questo, come si dice la canzone, si capirà vivendo, o qualcosa del genere. Dopo il decreto salva banche, anche dopo la questione Veneto Banca e Popolare Vicenza, molti hanno attaccato anche le autorità dicendo ci voleva più vigilanza. Come sarà possibile in futuro magari evitare casi di questo tipo? Le dirò che per un risparmiatore attento si sarebbe potuto evitare già i casi presenti. Le autorità sono davanti a una sfida ancora più sfidante di prima, e quindi stanno moltiplicando le iniziative. Noi abbiamo messo in cantiere tutta una serie di nuove iniziative che, nell'ambito di ciò che ci è permesso dalla legislazione europea, potranno aumentare il controllo e quindi la tutela del risparmiatore. Però a volte non è che quando uno perde una partita dà sempre la colpa all'arbitro, a volte dipende anche dai giocatori. Allora, giustissimo, come dice Vegas, non dare la colpa all'arbitro, che in questo caso si chiamano anche autorità di vigilanza, Consob, Banca d'Italia, però fatemi fare la battuta, perché mi ha alzato la palla: non può nemmeno ogni volta l'arbitro non avere responsabilità, cioè l'arbitro non può sempre chiamarsi fuori, perché il limite che vedo, ma ne parleremo dopo il traffico anche di questa relazione, che ha toccato punti giusti, condivisibili, è che non c'è mai un po' di autocritica. Allora uno può dire, vabbè, veramente noi abbiamo fatto il possibile, oppure prendere atto che forse è stato sottovalutato un problema, prendere atto che se le banche scrivono prospetti che quando gli fa comodo sono ingannevoli e, come dice Vegas, vanno a vantaggio di chi deve pararsi, diciamo, la schiena dai ricorsi legali, ma non danno un'informazione corretta o comprensibile soprattutto a chi sottoscrive quel prodotto. Beh, insomma, sarebbe bello, lo dicevamo per la Banca d'Italia, lo ripetiamo anche per dal governatore della Banca d'Italia, dal presidente della Consum, venisse ammessa forse un miglioramento possibile, ma non solo in capo agli altri, anche in capo alle autorità di vigilanza. Oppure non può dire no, va tutto, non ha mai colpe, è ovvio che non ha le colpe principali, ma dire che non ne abbia mai è un po' diverso. Andiamo sul traffico però. Focus Economia. Allora, vorrei sapere se questa valutazione viene condivisa anche da Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore e firma di molti commenti sul Sole 24 Ore proprio sui temi di finanza e anche di regolamenti bancari. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Dicevamo prima del traffico, abbiamo ascoltato vari passaggi, anche l'intervista di Giuseppe Vegas fatta dalla nostra Livia Zancaner. Tutto bene, ha riconosciuto tante cose sui prospetti troppo lunghi che non servono a nulla, non fanno capire. Però, insomma, forse leggermente autoassolutorio. C'era la frase finale che diceva: non è colpa dell'arbitro se alcune partite vanno male, la colpa è anche dei giocatori. Però l'arbitro nelle partite un ruolo ce l'ha, o no? Sì, ma questo adesso, senza assolvere nessuno, perché non è nostro compito né assolvere né condannare, ovviamente, però vi faccio presenti due aspetti importanti. Uno, le autority, la sede per l'autocritica e soprattutto per rispondere seriamente è il Parlamento, cioè le sedi istituzionali. Questo appuntamento annuale non è il momento del confronto con il mercato, ma è la relazione sulle principali criticità che sono emerse nel corso dell'anno. Quindi diamogli il giusto contesto, perché quando Vegas o i commissari Consob vengono chiamati in Parlamento, certamente non mancano domande critiche e lì le risposte sono anche più concrete. In questo caso però è l'aspettativa che è sbagliata, perché oggettivamente dal presidente della Consob che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci sì l'analisi di ciò che è successo l'anno precedente, ma soprattutto indicazioni su dove vogliono portarci, dove ci porterà l'Europa, dove vuole portarci il legislatore, dove vuole portarci la stessa Authority con il suo potere di regolamentazione. Tenete presente che ormai questo è il meccanismo di funzionamento dei mercati, e allora ci siamo già fatti cogliere impreparati sul bail-in, ma se andiamo a riprenderci le relazioni sia della Banca d'Italia che della Consob degli anni scorsi, già da lì emergevano le forti criticità che sono poi emerse ora, ma già da allora che cosa cercavamo tutti? L'autocritica, una volta è per Parmalat, una volta è per il Madoff dei Parioli e poi è Banca Etruria. Qui signori il problema è tutto qua, è come dire la polizia funziona o no, la polizia, le autorità, la vigilanza di per sé lavorano con un atteggiamento che è ex post, ma questo in tutte le parti del mondo, cioè se emerge un reato o se emergono comportamenti che possono essere manipolativi del mercato, in questo caso, beh, lì emerge l'importanza dell'autorità di vigilanza. Quello che abbiamo visto oggi che cosa è stato? Che sul lato ad esempio delle banche c'è stata una forte intensificazione dell'opera di vigilanza, e soprattutto un'altra cosa abbiamo visto, la sovrapposizione delle vigilanza e della regolamentazione. Quando Vegas dice, attenzione perché era commissariata Banca Etruria dalla Banca d'Italia, per cui la mia vigilanza in quel senso era impedita e limitata dal commissariamento, lì c'è la legge che subentra. Ecco, allora chi doveva vigilare, la Banca d'Italia o la Consob? Mi sembra un po' di risentire quanto abbiamo ascoltato con Lehman Brothers e con i mutui subprime, lo scatto, lo devo fare io, lo deve fare lei, io non potevo farlo. A me ha fatto piacere comunque vedere che quella relazione ci ha raccontato che per due volte ha esercitato dei poteri che mai c'erano stati prima, come quello di convocare il consiglio di amministrazione di una banca e fornirgli anche l'ordine del giorno. Lui non ha detto il nome, parlava della Popolare di Vicenza in quel caso, ma e questo è uno. Due, guardare avanti, ovvero che cosa vogliamo fare per proteggere gli investitori. Tenete presente che gli anni scorsi erano tutte relazioni più che non orientate alla investor protection, come si dice, alla protezione del mercato degli investitori, ma soprattutto all'efficienza dei mercati. Qui non si deve più parlare ormai l'efficienza, un po' per la tecnologia, un po' per il contesto che è mutato un po' a livello globale, si va verso quel percorso, ma la vigilanza chi la deve fare? Vegas oggi che ci ha detto? Attenzione, perché con i poteri che ormai ho io a disposizione, che oggi ho a disposizione, non riesco ad inseguire quelle operazioni spregiudicate, speculative, di tecnico, manipolative che si originano in altre parti del mondo, anche d'Europa, perché anche quello ci ha detto, che non è detto che partano da paesi opaci, certo, con opacità o altro. Quindi insomma, certo, non bisogna, io dico, è giusto chiedere conto di ciò che fa l'autority, ma chiederlo nella sede giusta, che non è sicuramente quello della relazione annuale. D'accordo anche sul fatto che, visto che l'esempio che citava prima Vegas era quello dell'arbitro, abbiamo avuto anche un problema nel capire chi facesse il guardialinea e chi facesse l'arbitro, cioè dove si fermava il potere di uno e dove iniziava il potere dell'altro, per usare l'esempio di Vegas, e quindi anche i rapporti Consob Banca d'Italia. Grazie anche a Alessandro Platerotti. E l'ultimo tema che invece riguarda questa puntata non ha a che fare con i mercati finanziari italiani, ha a che fare con i mercati finanziari europei, perché si chiama tenuta di nuovo della Grecia, vertice straordinario dell'Eurogruppo che sta per iniziare proprio sul debito greco, mentre ieri scontri davanti al Parlamento di Atene che ha varato un nuovo pacchetto di misure di austerità per riuscire a ottenere la seconda tranche del terzo pacchetto di aiuti che vuole avere dall'Unione Europea. Potremmo mandare in onda una vecchia puntata dell'anno scorso, perché tanto sul tappeto c'è sempre la stessa cosa. Il ministro delle finanze Euclid Tsakalotos ha detto: attenzione, voi chiedete nuovi sacrifici, ma la nostra economia negli ultimi 6 anni ha perso il 25% del suo valore. Ieri hanno approvato per un soffio 153 voti su 300 il pacchetto che prevede una riforma del fisco e delle pensioni, la stabilizzazione del sistema pensionistico, l'aumento di tasse per 3 miliardi e 600 milioni di euro, e a questo punto l'Eurogruppo deve decidere se quanto approvato ieri è sufficiente per andare con la seconda tranche del terzo pacchetto di aiuti. Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Vittorio, da questo punto di vista ci sono la misura presa ieri dal governo Tsipras, che pure gli è costata in termini di opposizione e di scontri davanti al Parlamento, è l'elemento che potrebbe convincere l'Eurogruppo oggi ad andare avanti? Dunque non ancora, perché? Perché Tsipras ieri ha ottenuto di approvare una manovra con la sua maggioranza, che è stata completamente compatta, di 3,6 miliardi, mancano ancora altri 1,8, e a quel punto la manovra che era stata prevista a luglio di 5,4 miliardi sarebbe approvata. Questo darebbe il via libera alla tranche che permetterebbe gli aiuti, che permetterebbe di pagare i 2,2 miliardi che il 20 luglio scadono e sono bond della BCE. Questo è il quadro. Ma, ahimè, il Fondo Monetario Internazionale chiede delle misure preventive supplementari pari ad altri 3,6 miliardi perché non crede che le previsioni siano realizzabili, cioè che nel 2018 il surplus della Grecia, il surplus primario, sia del 3,5. A quel punto il Fondo Monetario dice: se volete che resti della partita, o tagliamo il debito allungando gli interessi o il periodo per restituire, oppure andiamo a dare una nuova misura di austerità preventiva. Ma i tedeschi si oppongono al taglio del debito e naturalmente diventa complicato far approvare una manovra di 10 miliardi di austerità in un paese in cui la recessione è in pieno svolgimento. Quindi ogni attore ha una parte di ragione, una parte di torto, ma il problema è che il compromesso è veramente difficile, perché il fondo non può continuare a dare soldi senza essere sicuro di poterle riprendere, perché questo fa parte del suo statuto. E naturalmente la Merkel con Schäuble hanno paura di andare al Bundestag, dove gli ultimi sondaggi parlano della questo nuovo partito, l'Alternative für Deutschland, che nei sondaggi andrebbe addirittura al 15% se dovessero esserci ancora un nuovo problema. E lì c'è il caso austriaco con le dimissioni di oggi del cancelliere, diciamo che non... che getta così un po' di paura anche in Germania. Devo dire che entrando all'Eurogruppo il commissario europeo agli affari economico monetari Pierre Moscovici ha detto che insomma l'Eurogruppo deve comunque riconoscere gli importanti sforzi fatti dalla Grecia. Il vice cancelliere della Germania Sigmar Gabriel si è schierato a favore di un alleggerimento delle misure sulla Grecia, quindi contro Schäuble, il ministro di finanza tedesco. Il nostro ministro economia Piercarlo Padoan, entrando appunto all'Eurogruppo, ha detto: mi sembra che il governo greco abbia fatto passi avanti, noi abbiamo un atteggiamento aperto, ne valuteremo le varie misure nel dettaglio, l'atteggiamento deve essere molto aperti anche sul profilo del debito greco, vedremo se si arriverà a un accordo. Intanto grazie Vittorio D'Arold, da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Davide Ciocia per l'assistenza in regia e in qui agli studi di Radio 24 da Milano, buonanotte, da Parma al Cibus, padiglione 7, dove saremo in diretta con altri programmi anche domani. Intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.